Domani pomeriggio alle 18 in Montagnola si terrà un'assemblea pubblica intitolata Non è un paese per genitori, promossa dall'ARCI. Noi siamo al telefono con la presidente Rossella Vinieri, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Il titolo è abbastanza emblematico di questa assemblea, lascio a te spiegare perché avete pensato di indirla. In realtà tutto nasce da un post su Facebook in cui io, in quanto madre, lamento alcune difficoltà rispetto alla gestione dei figli da parte dei genitori. Io ho un figlio che va al nido, la difficoltà sta nel fatto che comunque spesso i bambini sono malati, è molto complicata la gestione e che sicuramente c'è la necessità di fare un ragionamento per provare a dare una mano ai genitori, soprattutto ai genitori non solo, ma anche ai genitori che lavorano. È stato un post a cui hanno risposto tante persone, devo dire soprattutto tante madri, che ci hanno confermato la richiesta di trovare dei luoghi in cui confrontarsi, in cui parlarne, perché i problemi che io lamentavo in questo post sono problemi che in tante e tanti genitori hanno. E da qui l'idea di organizzare un'assemblea, un incontro pubblico, anche perché noi siamo genitori che hanno vissuto spesso la nascita di un figlio, la maternità in un momento molto complicato della nostra vita, che è stato quello della pandemia. E devo dire che io, in quanto madre, ma anche noi in quanto famiglia, abbiamo affrontato una grande solitudine in questo. Questo è un momento in cui è difficile confrontarsi con gli altri genitori, sono pochissimi i momenti in cui puoi anche al nido, comunque non ci sono tante occasioni, ecco, per incontrarsi, per parlare, per condividere quelle che sono le difficoltà. Per cui questa assemblea nasce innanzitutto per offrire un luogo dove incontrarsi, dove parlare e dove cercare di capire quali possono essere gli strumenti che le istituzioni, che l'amministrazione, ma che anche il terzo settore può mettere in atto per sostenere le famiglie. Possiamo fare qualche esempio pratico, perché appunto nella nostra regione più che altrove c'è un livello, insomma, buono di welfare, ma come dire, in cosa consistono i problemi? Io credo che vengo da una regione come la Sicilia, dove c'è un'assenza di servizi offerti anche per la prima infanzia, quindi noi viviamo in una regione che offre già tanto, però anche nel confronto che ho avuto con tante mamme sono ancora tanti i genitori che non riescono a inserire i figli in nidi perché sono ancora delle lunghe liste d'attesa, e quindi questo per esempio è uno dei primi problemi. Prima di parlare di nidi gratuiti bisogna che i nidi siano innanzitutto per tutti i bambini. Questa per esempio è una prima difficoltà. E poi chiaramente non esiste solo il nido, ma esiste anche un tempo in cui i figli non sono al nido, però molte madri e molti genitori lavorano, e in questo tempo è necessario anche provare a organizzare, a costruire dei servizi che possano venire incontro soprattutto alle persone che lavorano. Esistono le babysitter, però chiaramente non tutti possono permettersi ad esempio di avere delle babysitter. Un altro problema è per esempio quello dei congedi. Non tutti per esempio possono permettersi di prendere dei congedi per la malattia dei figli, lo possono fare molto meno i padri e non lo possono fare quasi per nulla le madri che vivono delle situazioni di precarietà. Sappiamo che comunque il lavoro femminile è un lavoro prevalentemente precario, e per queste donne permettersi di rimanere in casa con i figli è praticamente impossibile. Quindi le questioni sono tante, sono legate ai tempi del lavoro, sono legati quindi anche all'organizzazione del lavoro, sono legati all'organizzazione dei servizi che probabilmente sono stati costruiti in tempi in cui il lavoro e soprattutto il lavoro delle donne era organizzato in maniera totalmente differente. Quindi trovare un modo per ripensare anche a questo credo che sia fondamentale, soprattutto in una città che si dichiara femminista. Se è una città femminista, una città che fonda le sue radici nell'idea di cura, è importante affrontare questo argomento e provare a rispondere ai bisogni dei genitori e soprattutto delle madri. Durante l'iniziativa ci saranno anche dei contributi, diciamo così, di persone che lavorano proprio concretamente nel settore, come Vanessa Niri, che è una pedagogista, coordinatrice gruppo infanzia e adolescenza di ARCI Nazionale, e Emanuele Pavolini, che è portavoce di Alleanza per l'Infanzia. Quindi insomma sarà una prospettiva anche più ampia, oltre ovviamente a quella della nostra città. Sì, abbiamo pensato di dare anche delle persone che stanno affrontando questi temi e che stanno cercando di dare anche delle risposte, pensando anche a quelli che sono i fondi del PNRR e cercando di trovare, ecco, delle risposte a livello nazionale, perché io questo ci tengo a sottolinearlo. Vogliamo provare a creare un momento di confronto che però non sia semplicemente un momento per condividere problemi, ma anche un'occasione per costruire delle soluzioni che possono essere costruite sia a livello cittadino, ma che hanno bisogno anche di risposte a livello nazionale. Certo, come fare per partecipare all'assemblea? Per partecipare è importante iscriversi, lo si può fare direttamente dal sito dell'Arci di Bologna, dove si trova la news dell'evento. C'è anche la possibilità di richiedere l'utilizzo di uno spazio bimbi, quindi ci sarà anche la possibilità, ci saranno degli educatori e delle educatrici Arci che possono tenere bambini durante l'assemblea. Quindi insomma sì, basta iscriversi e venire in Montagnola martedì 30 alle ore 18. Grazie mille. Grazie a voi.